Non si sa molto di Lucy Maud Montgomery, la scrittrice canadese vissuta a cavallo tra 800 e 900, che ci ha regalato una delle più suggestive figure femminili della letteratura, ancora una volta riduttivamente definita per fanciulle o per l'infanzia. Anna dai capelli rossi, il cui titolo originale era Anna dei tetti verdi, è la storia di un'orfana che viene spedita per errore a una coppia senza figli. Per errore, perché i due avevano chiesto un maschio. Nell'enfatizzazione del loro disappunto è evidente l'intento dell'autrice di riscattare e valorizzare il genere femminile, poiché in effetti i due verranno poi affascinati dalla ragazzina e, decidendo di tenerla ugualmente, ne avranno autentica soddisfazione, amore e aiuto negli anni. Inoltre, Anna si farà onore nel corso degli 8 romanzi che l'autrice le dedicherà, giungendo addirittura a laurearsi. Cosa che, se si pensa all'epoca in cui fu scritto, cioè nel primo decennio del Novecento, non è affatto scontata, tanto nella vita reale come nella letteratura. A quell'epoca non era ritenuto importante far studiare le bambine, le quali, tanto crescendo, avrebbero dovuto diventare delle mogli, attività per la quale non si reputava che occorresse istruzione. Anna, invece, orfana, dotata e intelligente, come fu la stessa Lucy Maud, mette a frutto i suoi talenti, rendendo fieri di lei i due anziani che l'avevano accolta, nonostante l'iniziale rifiuto, perché femmina, appunto. È stato scritto che Lucy Maud Montgomery pescò dalla sua vita personale le vicende e le caratteristiche di Anna e anche che cominciò a scrivere per sopravvivere al grigiore della sua vita domestica. E questo, purtroppo, è stato il destino di altre grandissime scrittrici e artiste, dalle sorelle Bronte a Virginia Woolf, da Jane Austen a Virginia Frances Sterrett, da Louisa May Alcott a Emily Dickinson. Le donne non potevano viaggiare né studiare, non avevano libertà di frequentare ambienti pubblici al di fuori della casa e della chiesa, quindi dovevano usare l'immaginazione per sopravvivere alla noia e alla frustrazione della loro vita. E proprio questo ha consentito loro di consegnarci innumerevoli autentici capolavori. Nell'arco dei precedenti 60 anni, rispetto all'uscita di Anna dai capelli rossi, erano stati dati alle stampe altri romanzi, i quali proponevano figure femminili indomite, indipendenti e anticonformiste, che ebbero immediato successo già fin dalla pubblicazione. Jane Eyre, per esempio, o Jo Marce delle piccole donne, che adombravano le stesse autrici, tutte ascoltabili su questo nostro canale YouTube, e il delizioso romanzo pedagogico Heidi della svizzera Johanna Aspiri, anch'esso incentrato sulla figura di una bambina intelligente e anticonformista che rifiuta il classico modello di educazione femminile e rimane selvaggia e libera nelle montagne. In tutti questi casi, le autrici offrono modelli di educazione e comportamento femminili alternativi a quelli in vigore all'epoca, considerati gli unici accettabili per le ragazze per bene. Purtroppo, i cartoni animati giapponesi ispirati agli omonimi romanzi non sono certo stati pensati per trasmettere il reale spessore dei personaggi di cui parliamo, in quanto realizzati ad uso esclusivo di un'infanzia infantile e limitati alle strazianti vicende delle povere piccole orfanelle, vittime della donna cattiva di turno, ma completamente monchi della parte psicologica e del messaggio politico e sociale di sostegno ai diritti delle donne che le autrici volevano attraverso i loro scritti divulgare. Lucy Maud Montgomery morì scrittrice riconosciuta di grande successo a 68 anni, ma come molte altre artiste prima e dopo di lei, non fu felice in un mondo a misura d'uomo, tant'è che non si esclude l'ipotesi che si sia suicidata. La scuola delle donne vi propone il romanzo integrale edito da PM nel 2014 per la traduzione di Maria Bastanzetti. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.